Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1865, hanno ammazzato il presidente. L'audio che siamo riusciti a raccogliere al Ford Theatre di Washington, come avete sentito, non è di ottima qualità. Ce ne scusiamo, ma abbiamo deciso di trasmetterlo lo stesso, perché è una delle poche registrazioni del momento esatto dell'assassinio di Abraham Lincoln. Il presidente americano è stato ucciso ad appena 5 giorni da quello che viene considerato l'atto finale della guerra civile, la resa del generale Lee. Lincoln è stato freddato con un colpo di pistola, una Derringer calibro 44 alla nuca, mentre era nel palco presidenziale ad assistere alla rappresentazione di una commedia musicale. L'esercito, le forze dell'ordine stanno inseguendo l'assassino. Sanno benissimo chi è, perché si è fatto vedere dopo la sua azione, è salito sul palco e ha urlato «Sic semper tyrannis», così sempre per i tiranni, e perché ha calcato le scene molte volte. Si tratta di John Wilkes Booth, attore tra i più noti e ora si è scoperto fanatico sudista. Gli sono alle costole, ma per sicurezza hanno messo sulla sua testa una taglia da $100,000. Gli effetti dell'attentato dal punto di vista politico sono imprevedibili, sebbene molti analisti convergano su un punto: le componenti più radicali tra gli unionisti potrebbero decidere di colpire il Sud con provvedimenti punitivi, soprattutto ora che è venuto a mancare l'uomo che voleva fare da perno alla ricostruzione. Tutto questo potrebbe rallentare in maniera drammatica, in maniera forse irrecuperabile, il processo di riappacificazione nazionale. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24, Washington.